Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono a Padova. Tra qualche giorno, il 13 di giugno, questa città festeggia il santo patrono, Sant'Antonio, e alla Basilica affluiranno tantissimi pellegrini. Vi consiglio di venire in questo luogo perché è uno scrigno d'arte straordinario, oltre che naturalmente un luogo di fede. E per non fare troppa fila, vi consiglio di andare non esattamente dove c'è la Cappella del Santo, ma dall'altra parte, esattamente nel transetto destro della Basilica, dove si trova una cappella del 1376-79 praticamente intatta, una vera magnificenza. La grande scuola di Giotto era stato a Padova all'inizio del 300, continua fino alla fine del 300, e qui viene realizzata una cappella da due pittori, Altichiero da Zevio e Jacopo Avanzi, che per la famiglia Lupi, che era una famiglia emiliana ma era legata alla signoria dei Carraresi, si fa costruire questa cappella funebre, che è una magnificenza, che tutta quanta affrescata racconta le storie di San Giacomo Maggiore. San Giacomo Maggiore ha avuto una vita particolarmente movimentata, e gli affreschi che noi vediamo alle pareti raccontano proprio come una fiaba i grandi episodi di questo santo, che si trova all'inizio, naturalmente, mentre è ancora a Gerusalemme, ad avere a che fare con un mago cattivo, Ermogene, che gli manda i diavoli, però naturalmente noi vediamo alle pareti riesce a legare i diavoli e a convertire Ermogene, e poi a un certo punto non riesce a sfuggire al martirio, ma dopo essere stato martirizzato viene messo su una barca, e la barca misteriosamente attraversa tutto il Mediterraneo e finisce in Spagna. Ed ecco perché proprio a Santiago, cioè a San Giacomo di Compostella, si venera questo grande santo, e finisce la leggenda negli affreschi proprio nella casa della regina Lupa, verrà costituito il grande santuario che noi oggi andiamo a visitare in Galizia, nel Finisterre della Spagna.